1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qua, sono le 7 e 16 minuti, cari italiani, cari ascoltatori, non l'ho detto prima ma lo dico adesso, inizia la 42esima settimana decisiva per la riforma elettorale, proprio oggi, nonché la 42esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Dai che è quella giusta, dai che ce la facciamo italiani, dai, forse è quella giusta. Mi sa di no, però noi non demordiamo e continuiamo a contare, continuiamo ad andare avanti. Allora, oggi parleremo di questa politica, giorni frenetici. Alle 10.30 Matteo Renzi va da Giorgio Napolitano al Quirinale per presumibilmente ricevere l'incarico per formare il nuovo governo. Ce la farà? Pare che ci sia un rallentamento. Il nuovo centrodestra con Alfano che chiede poltrone, che chiede un accordo, che insomma vuole rallentare un po'. E vabbè, un gran classico, ma Renzi, Turbo Renzi, ormai viene chiamato così, abituato ad andare veloce, invece vuole accelerare. I giornali si cimentano ovviamente di tutte le paginate del chiacchiericcio, anche col Toto Ministri, di quello che sta per succedere al cambio di governo in Italia. Intanto andiamo a sfogliarli. Noi ovviamente parleremo di questo anche alle 8.15 con gli ospiti che sono Massimo Cacciari, Udo Gumpel, giornalista tedesco, Simona Bonafede, Partito Democratico, e probabilmente riusciamo a avere in treno, ma ce la faremo. Ci crediamo, anche Flavio Zanonato, ministro dello sviluppo economico in uscita. Questo alle 8.15, giornale. In questo lunedì 17 febbraio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, un'edizione fresca con le notizie di ieri. Italia, l'Unione Europea, 3 miliardi di tagli, questo è il titolo principale, ma anche, sempre in prima pagina, braccio di ferro Renzi-Alfano, oggi l'incarico al leader del PD. Dico fresca nel senso che l'edizione del lunedì abitualmente è chiusa prima, mentre invece è stata tenuta aperta l'edizione del Sole per appunto lo sviluppo della crisi di governo. Per il Corriere della Sera, governo tempi più lunghi, questo è il titolo di prima pagina, mentre Repubblica, oggi incarico a Renzi, mi gioco tutto. La Stampa, Renzi, la grana economia. Sul Tempo gioca anche l'Unità con il titolo Renzi ci vuole più tempo. Il Giornale, l'ora degli idioti. La foto è di Alfano e Diego Della Valle che per il Giornale sono appunto gli idioti messi in prima pagina. Per il Messaggero, Renzi, braccio di ferro sui nomi. Mentre il Secolo XIX, i primi no per Renzi, Alfano alza la posta. Il Fatto Quotidiano invece ha una prima pagina dedicata a più scorte per tutti, lo vedremo tra poco, ma io intanto voglio partire da che cosa? Beh, le notizie che trovate sui giornali, su Vladimir Luxuria, sono notizie in realtà un po' vecchie, proprio perché, come abbiamo sentito nel giornale radio, Vladimir Luxuria è stata liberata nella notte, era andata a Sochi a sventolare una bandiera arcobaleno, la bandiera simbolo del mondo omosessuale, ed è stata fermata dalla polizia. Ora sui giornali troverete ovviamente paginate con l'allarme. In realtà Repubblica riesce a scrivere la liberazione nella notte. Qualcuno che dice trattata in modo brutale. In realtà la Farnesina dice non è stata trattata male, non ha subito nessun tipo di violenza, è stata semplicemente fermata e identificata. C'è anche un'intervista su Repubblica al regista delle Iene, Davide Parenti, il capo autore. Un inviato transgender e comunista, per noi Iene era la provocazione perfetta. La situazione però le è sfuggita di mano. È stato un fulmine a ciel sereno, l'arresto non l'avevamo proprio messo in conto. Nei primi giorni era andato tutto bene, aveva fatto un reportage tranquillo. Insomma, era lì per le Iene, così su Repubblica. Comunque è stata liberata nella notte e quindi i giornali che raccontano di Vladimir Luxuria arrestata sono giornali un po' vecchiotti, almeno da questo punto di vista. Voglio però tornare al vecchio mantra che da un po' di tempo abbiamo abbandonato sulla questione delle spese che vi fanno certamente mettere di buon umore, col mio solito invito a tenere le mani ben strette sul volante se state guidando o sul manubrio della bicicletta, che molti mi ascoltano andando in bicicletta. Per i soliti che sono sul treno, i pendolari magari in seconda classe, sfigati come direbbe Raffaella Fico, sfigati che non siete altro, posizione di atterraggio d'emergenza in aereo. Perché? Perché il giorno mette con Davide Nitrosi a pagina 8 le incredibili spese di Palazzo Chigi, e ce ne sono davvero di tutti i tipi, Per esempio 4.607 euro per la deratizzazione, combattere i topi a Palazzo Chigi, bando alle battute, cari italiani. Oppure vi si rompe anche voi qualche volta se ce l'avete il condizionatore, e chiamate, magari in piena emergenza, succede sempre in piena estate, e chiaramente è successo il 22 luglio a Roma. Sapete quanto è costato un intervento per riparare nella stanza di un ministro il condizionatore Daikin, giusto per non fare il nome della marca? 2.000 euro. 2.000 euro, metterlo nuovo più o meno, anzi probabilmente costava anche meno, 2.000 euro. Era un intervento in estrema urgenza, 22 luglio, capirete. E poi ci sono delle spese, secondo il giorno, abbastanza incomprensibili. Per esempio 39.000 euro stanziati per un'indagine per attuare coerenza tra il programma di governo e la pianificazione strategica dei ministeri. E ancora 47.780 euro per realizzare una banca dati per l'attuazione del programma di governo. E ancora, udite, il rapporto bisogni e priorità dei cittadini, livello di conoscenza delle iniziative e dei provvedimenti del governo. Un'indagine sull'opinione pubblica, vanno chiamato da Palazzo Chigi, magari 47.780 euro questo. E ancora sondaggi, 47.317 euro per un piano di ricerche articolato finalizzato a monitorare gli indicatori di clima di opinione. E ancora sito e widget per monitorare l'attuazione del programma di governo, 45.654 euro. E vabbè, poi ci sono gli interventi tinteggiatura corridoio, 5 giorni di lavoro 4.800 euro, smaltimento di materiale fuori uso, 10 giorni per liberare i locali, 21.000 euro, 10 giorni di lavoro, 21.000 euro, igienizzazione straordinaria del tappeto dell'ufficio del segretario generale, vabbè 80 euro, pulizia di divane e poltrone, lavaggio tende 13.571 euro, vabbè ci sono anche i tendaggi e ci sono cose, ma certo tante indagini con 40-50.000 euro buttate lì così a botta per monitorare l'opinione pubblica e il rapporto tra l'opinione pubblica e i risultati di governo. Vabbè, questo è quello che racconta il giorno. Volete ancora tenere le mani ben strette sul volante? Il Fatto Quotidiano torna su uno dei temi annosi, le questioni che vengono periodicamente tirate fuori, che è la questione delle scorte. Siamo un mondo di scortati. Secondo Emiliano Liuzzi, sul Fatto Quotidiano, pagina 6 e 7, l'inchiesta che parte da una stima di 255 milioni l'anno, 255 milioni, questa sarebbe la cifra, tanto ammonterebbero sul bilancio dello Stato il costo delle scorte, quasi tutte per necessità, per qualcuno scrive il Fatto invece lo status di un traguardo raggiunto. Le auto blu con tanto di sirena al seguito sono qualcosa come 200, mentre in Italia si stima che siano quasi 600 le scorte affidate a personalità politiche. A scorrere l'elenco, scrive il Fatto, in alcuni casi viene da chiedersi il perché. Non si capisce perché, per esempio, Antonio Mastrapasqua, ex presidente dell'INPS, viaggiasse scortato da 3 agenti. Oppure la necessità di tutelare ministri della Prima Repubblica come Paolo Cirino Pomicino, Ciriaco De Mita, altri da tempo non più in carica come Claudio Scaiola, Beppe Pisanu, Francesco Rutelli, Gianfranco Rotondi, Lorenzo Cesa. Romano Prodi, due volte Presidente del Consiglio, una volta Presidente della Commissione Europea e anche Ministro dell'Industria, è scortato da quattro agenti che si alternano. Lui dice: rinuncerei volentieri, ma sono obbligato, almeno sul territorio italiano. A Bologna, scrive Il Fatto, ogni tanto riesce a svicolare e spessissimo gira da solo. Di una scorta di due uomini può godere anche Paolo Berlusconi, fratello dell'ex presidente del Consiglio, mentre Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri hanno diritto a due agenti ciascuno. Tra i direttori protetti anche Maurizio Belpietro, scortati anche il direttore della stampa Mario Calabresi, Emilio Fede. Tra i sorvegliati speciali non ci sono al momento né Beppe Grillo né il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, che avrà però 15 angeli custodi per lui appena insediato a Palazzo Chigi. E mentre Il Fatto dice che di Laura Boldrini sotto tutela è anche il ministro dell'integrazione Cécile Kyenge, anche Laura Boldrini sorvegliata da 12 uomini ogni giorno per 24 ore per i suoi spostamenti, due auto blindate, una terza va in avanscoperta, una quarta auto tutela l'abitazione privata, Laura Boldrini. Inoltre la scorta è estesa anche al suo compagno dalla settimana scorsa, quando il presidente della Camera ha ricevuto un proiettile. E vabbè, l'elenco poi continua con le scorte. Va bene, vi voglio proprio rovinare l'inizio di settimana. È ufficiale. E allora vi racconto la lettera che Diego Armando Maradona ha spedito al Corriere della Sera per l'annosa questione e contenzioso col fisco. Non voglio fare la fine di Sofia Loren, pagina 22 del Corriere. Caro direttore, scrive Maradona, ho grande rispetto per i lavoratori rappresentanti di Equitalia, fan quello che gli dicono leggi prive di sensibilità, ma spero siano umani e comprendano che sono vittima di un pasticcio burocratico. Non chiedo sconti a nessuno, non voglio però che si chiami Salvi Maradona l'ultima sanatoria, perché io non ho, sono innocente, non chiedo sconti a nessuno. Ci vuole una legge più umana che tenga conto di chi ha bisogno, non una sanatoria di cui approfitteranno come sempre gli evasori professionisti. Occorre invece aiutare quei cittadini onesti che soffrono perché non riescono a pagare, per esempio, una multa. Io sono vittima di una ingiustizia colossale e contraddittoria. Non sono evasore, non chiedo sconti, ma solo chiarimenti. Basta leggere bene le carte per capire che non c'è prova che io abbia ricevuto soldi da Corrado Ferlaino. Il fisco italiano si è basato su un'ipotesi mai dimostrata. Sono innocente, non ho mai evaso una lira, basta leggere i documenti. Si tratta di un grande pasticcio burocratico innescato da un evidente errore processuale, da una notifica che io non ho mai ricevuto. Però esiste la giustizia, spero solo che di tempo non ne occorra troppo, di non essere riabilitato dopo 40 anni come la malcapitata Sofia Loren, che finì anche in galera. Ma forse dietro alla mia vicenda c'è ben altro. Io pago il prezzo di non aver mai detto sì signore ai poteri forti. Ho sempre ritenuto giusto e doveroso pagare le tasse fondamentali per far funzionare la società. Così Diego Armando Maradona, il suo contenzioso col fisco. Ebbene, cari italiani, siete rallegrati? Siete sereni? Siete tranquilli? Ora, dopo la pubblicità, vi leggerò che succede per quel che riguarda la politica con l'incarico che verrà dato oggi a Matteo Renzi. Ce la farà Turbo Renzi? Vedremo. Alessandro Milan, Lorenzo Canà dell'informazione. Grandissimo Lorenzo Canà, veramente un genio indimenticabile, grande Nino Banfi e Lorenzo Canà. Allora, la politica, oggi alle 10.30 Matteo Renzi va da Giorgio Napolitano, è stato convocato al Quirinale presumibilmente per l'incarico, ma a leggere i giornali questo braccio di ferro Renzi-Alfano su programma e squadra, questo è il titolo del Sole 24 Ore, pagina 5, ha rallentato un po' le cose. Ieri si sono parlati al telefono, ma è slittato il faccia a faccia, e quindi mentre tutti pensavano entro lunedì, martedì massimo, sarebbe arrivata anche la squadra di governo e la possibile fiducia, tutto slitta giovedì o venerdì. Dunque sarà una settimana nella quale non ce l'hanno fatta prima di Sanremo. Avrei detto, continuavo a dire, ma no, c'è Sanremo, non si può durante Sanremo una crisi politica. E invece tutto è rallentato. ci prenderemo qualche giorno, così Maria Elena Boschi, che è data in predicato per essere una delle ministre incaricate del governo Renzi, ha detto ieri, a capire che la situazione è un po' di stallo, e quindi dovete immaginare Renzi, che è abituato ad andare veloce, e Alfano invece che sta cercando di rallentare. Insomma, le cose si complicano un po', anche perché la squadra di governo non è facile. Le garanzie di Renzi ad Alfano: non cerco altre maggioranze, così pagina 2 di Repubblica. Il cronoprogramma del governo, oggi l'incarico al segretario del PD, che dice ai suoi: mi gioco tutto. E dice anche, secondo il retroscena di Goffredo De Marchis su Repubblica pagina 2, osservo molti movimenti in SEL e nei 5 Stelle, ricevo segnali chiari da quella parte. A destra idem dalla Lega e da Forza Italia, ma non voglio nemmeno pensare a cambiare l'asse dell'esecutivo. Ecco, il timore è questo di Alfano, al di là delle dichiarazioni, che Renzi in qualche modo possa cambiare appunto l'asse dell'esecutivo e strizzare per esempio l'occhio a Berlusconi e a Forza Italia. A quel punto il nuovo centrodestra di Alfano non sarebbe più così indispensabile. Ecco perché, al di là dell'alzare la voce, voi dovete sempre leggere nella politica, tutto è abbastanza semplice, no? Già leggere il retropensiero. Alfano pensa evidentemente, se non alza la voce, che in questo momento possa cambiare la possibilità che Renzi possa appoggiarsi invece magari anche a Forza Italia o magari a alcuni fuoriusciti di SEL e del Movimento 5 Stelle, per avere una maggioranza e i numeri in Parlamento che non diano quel ruolo così indispensabile ad Alfano stesso. E comunque è un Renzi che non vuole essere imbrigliato in questi giochetti, e quindi è un Renzi che è abituato ad andare veloce, come racconta il quotidiano La Repubblica, come racconta il Corriere della Sera nelle pagine di analisi 2 e 3. Oggi l'incarico a Renzi, tra l'altro c'è questo titolo del Corriere, io lo devo leggere, pagina 2, primi 3 mesi decisivi. Ecco, adesso inizieremo a contare anche i mesi decisivi. Resta il nodo Alfano, così titola il Corriere della Sera, il racconto di Alessandro Trocino a pagina 2. Lasciamo che tutti si sfoghino in queste ore, la partita vera comincia dopo e si giocherà nei primi 3 mesi con le proposte concrete, così dice Matteo Renzi. Uno dei rebus è quello della squadra di governo, e trovate qui io mi appassiono a queste cose, mi appassiono nel senso che vedo le figurine, vedo i nomi, vedo chi sale, chi scende nel borsino dei ministri. Il rebus certamente è l'economia, racconta Repubblica tra l'altro che ci sarebbe questo tentativo in extremis, anche abbastanza francamente poco spiegabile ai cittadini, e cioè mettere all'economia, indovinate chi, cari italiani, indovinate chi? Enrico Letta. Ma come Enrico Letta? Giustamente Miriam Lucchetti dall'altra parte sobbalza. Ma come Enrico Letta? Allora mettevamo Renzi all'economia, lasciavamo Letta presidente del Consiglio e tutto era risolto, invece di fare tutto questo casino. Comunque pare che sia anche questa una delle opzioni ben voluta dal Quirinale, meno ben voluta da Matteo Renzi e assolutamente pare non voluta da Enrico Letta, che anche nel retroscena di Francesco Verderami a pagina 3 del Corriere pare abbia risposto: sono in procinto di fare una vacanza, non sarò in Italia nei prossimi giorni. Come dire, si vuole sfilare. Poi aveva detto: non voglio strapuntini, e quindi nulla. Certo, rebus economia, pressing su Letta, così titola Repubblica. Alfano invece punta la vicepresidenza. C'è da dire che Guerra, amministratore delegato di Luxottica, dice no. L'ipotesi sempre per l'economia, si fanno i nomi anche di Fabrizio Barca, si fanno i nomi di Bernabé, ma così come si fanno i nomi un po' di tutti, il Toto Ministri è una delle cose più divertenti quando ci sono i nuovi cambi di governo. Pagina 5 del Corriere, un'intera pagina, guardate qui: Fabrizio Barca, Maria Elena Boschi, Montezemolo, pare che questa mattina Renzi incontrerà Montezemolo presto alle 8 del mattino, Roberta Pinotti forse alla difesa e sarebbe la prima donna, Emma Bonino pare che rimanga agli esteri, Mauro Moretti, amministratore delegato delle Ferrovie, anche lui è dato forse al lavoro, o forse la giovane Marianna Dia, chi lo sa. Andrea Orlando viene dato alla giustizia, boh. Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano, è salita moltissimo nelle possibilità come ministro alla giustizia. E poi ecco, io mi appassiono a queste cose e poi mi sono un po' fermato, perché a pagina 5 del Corriere vedo alla salute Gino Strada. Massimo rispetto per il fondatore di Emergency, ecco, ma quando ho visto Gino Strada ministro alla salute ho detto forse questo gioco di appassionarsi al Toto Ministri non è poi un gioco molto sano, ci sono cose più divertenti da fare. Comunque il Toto Ministri non c'è giornale che ne sfugga, il giornale pagina 5, ecco qua i favoriti: Del Rio dato per certo alla presidenza del Consiglio, Giavazzi viene dato, Francesco Giavazzi editorialista del Corriere della Sera anche e professore universitario all'economia, vabbè, Guido Calvi viene dato anche alla giustizia come possibile, e vabbè, al lavoro Tito Boeri, questo è un nome che già circola, insomma il braccio di ferro sui ministri, titola anche pagina 3 del Messaggero, per disinnescare Alfano Matteo vuole nomi a effetto, e c'è quindi anche questa vicenda, anche se la Stampa racconta che alcuni no, primo fra tutti, come racconta Federico Geremicca, il no di dell'amministratore delegato di Luxottica Guerra è il no più doloroso per Renzi, racconta la Stampa, ed è il primo imprevisto sfilacciamento per il futuro premier. Manda sms ai suoi per negarlo, ma è nello stallo. Ecco, racconta Geremicca nella sua analisi in prima pagina della Stampa che Renzi ha mandato un sms ieri ai suoi fedelissimi con questo testo: nessun problema serio al momento, anzi in realtà è nello stallo, racconta la Stampa, ed è un po' in difficoltà. Cosa deve fare Matteo Renzi? È invece la ricetta che gli detta, in qualche modo gli suggerisce Davide Serra, che è stato molto spesso chiacchierato, no? Ricordate, il finanziere fondatore CEO di Algebris Investment, sostenitore del progetto Renzi, anche se intervistato dal Sole 24 Ore da Alessandro Graziani, dice: io parlo per me, certo non parlo per Renzi, anche se sono un suo sostenitore. Chiacchierato perché ricordate colui che fece fare la battuta a Bersani sui finanziamenti, le Cayman, i rischi di querele, e poi Davide Serra, intervistato oggi sul Sole, dice: cosa bisogna fare? Bisogna tassare le rendite. Da investitore credo sia necessario, non è un paradosso, se l'obiettivo è la crescita economica è inaccettabile che un paese tassi al 20% le rendite finanziarie mentre il lavoro è tassato al 45%, le imprese al 60%, bisogna riequilibrare il peso del fisco a favore delle attività produttive ed è ovviamente indispensabile ridurre il cuneo fiscale, poi fare la legge elettorale. E insomma questa è la ricetta, e in estrema sintesi, proposta da Davide Serra sul Sole 24 Ore. A proposito di Sole, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie, voi? Benissimo, sei nel Toto Ministri? No, non mi hanno contattato, ma pensavo di rifiutare perché mi pare che in questo momento vada più di moda. Vada più di moda. Cioè mi si nota più se non ci vado, se ci vado. Tu sei stato contattato? No, però l'incarico arriva alle 10, quindi il telefonino è acceso. Poi se mi fanno ministro a qualcosa io porto un posto di sottosegretario a tutti i miei ascoltatori. C'è posto per tutti. Va bene. Non c'è problema quanti sono. Noi facciamo un posto, facciamo un governo smart. Ecco, così. Io non vorrei adesso, come dire, tarpare le tue ambizioni, però forse, guarda, è meglio se leggendo il Sole 24 Ore, visto che ce l'hai già lì comodo, sì, guardi se per caso c'hai qualche multa, qualche cartella Equitalia in giro, ti abbiamo fatto una guida per pagarla. Grazie. Ecco, entro la fine del mese, la fine di febbraio, bisogna pagarla, e quella lì non è che c'ha poi deroghe, cose, proroghe, chiude la sanatoria, quindi è perso il vantaggio, che non è moltissimo, ma insomma sempre meglio che perdere l'ombrello, come si dice. E poi hai mica messo da parte in un piano di investimento tanti anni fa, piano di investimento pensionistici? No, quei due urini famosi? No, quelli sono sempre in tasca. Va bene, però se tu l'avessi fatto, qualcuno degli ascoltatori l'ha fatto, dia un'occhiata alle pagine di Risparmio e Famiglia, come tutti i lunedì sul Sole 24 Ore, perché? Perché se sono stati cominciati un po' di anni fa, beh, può darsi che stiate pagando un po' troppo, stiano rendendo un po' troppo poco. Ecco, questo Io vorrei chiudere, vorrei portare il mio contributo a Cottarelli, posso? Sì, certo, come no. Visto che Saccomanni dice all'Europa 3 miliardi entro la fine dell'anno, in modo da... Ecco, non so se mi varrà una chiamata per un posto da ministro, ma, per il quale comunque... non esagerare, anche sottosegretario va benissimo. Anche sottosegretario va bene. No, però volevo segnalare a Cottarelli questo articolo di Antonello Cherchi oggi sul Sole 24 Ore. Le sovrintendenze, insomma i beni culturali in genere, non riescono a spendere, cioè hanno i soldi lì da spendere, però non ci riescono perché i lavori sono lunghi, perché la burocrazia, perché insomma i soldi ci sono ma non si riesce a spenderli del tutto e ballano 400-600 milioni, quindi un po' di più dei tuoi 2 euro. Abbastanza, sono le classiche pastoie burocratiche all'italiana. E sono le pastoie, i soldi si fermano lì. Allora volevo dirlo a Cottarelli che sta un po' cercando, so che sta un po' cercando soldi. Di rimare qua, vabbè, mi sembra. Segnalo i tuoi 2 euro da una parte e dall'altra. 400-500 milioni. 400-500 milioni che sono lì. Ma spiega tutto bene Antonello Cherchi sul Sole 24. Benissimo, Mauro, io ti ringrazio. Questa è una settimana iniziata benissimo per l'Inter, peccato che invece non sarete impegnati infrasettimanali, ma insomma sono cose che capitano. Non capisco il riferimento, comunque. No, ma guarda, ti dico, neanch'io so di cosa sto parlando. È meglio tenersi schisci, come si dice a Milano. Neanch'io, anche il Milan questa settimana non giocherà. Non ti preoccupare. E poi magari ci saranno novità. Stai sereno. Mauro Meazza, stai sereno. Il traffico e poi rientriamo. Alessandro Milan, il Barack Obama dell'informazione. Sì, il Barack Obama, certo. Va bene, allora grazie a tutti gli ascoltatori. Ma il Gabibbo però, il Gabibbo. Allora, che dire, la politica ancora ieri si è concentrata sugli stracci volati all'interno del centrodestra con Alfano che... paragonato in qualche modo all'utile idiota come stampella del centro-sinistra. Ieri ha risposto con una veemenza fino a questo momento senza precedenti. Berlusconi irriconoscibile, circondato lui da troppi inutili idioti. Abbiamo fatto sentire anche l'audio molto molto duro, con i retroscena, sia il giornale che mette l'amarezza di Berlusconi, Angelino è lì grazie a me, anche Repubblica, il retroscena di Carmelo Lopapa, il cavaliere attonito, mi deve tutto, ma ora è un pugile suonato. Parla di nominati, ma lui è stato nominato a 38 anni, ministro della giustizia, segretario del partito a 40, ministro dell'interno a 42. Insomma, un Berlusconi che dice assolutamente basito dalla reazione di Alfano. Anche pagina 9 del Corriere, Tommaso Labate racconta il rapporto con l'ex Delfino, l'amarezza del cavaliere, chi era più fidato di lui, e invece ora volano gli stracci. Sentite Micaela Biancofiore intervistata da Mattia Feltri sulla Stampa a pagina 7, dice: Alfano non ha tutti i torti. Come? Inutile non mi sento, ma idiota sì. Mi sento idiota se penso a tutto ciò che Angelino ha ricevuto invece di tanti altri che hanno militato in Forza Italia e nel PDL ma non hanno sgomitato e scodinzolato. Perché lui è uno che davanti a Berlusconi ha scodinzolato più di Dudù. Così Micaela Biancofiore di Alfano. Non esageri. Sì, l'ho visto io stessa più volte stendersi a pelle d'orso davanti al presidente, blandirlo, esaltarne i successi. Del resto l'ha fatto con tutti i suoi mentori, dalla loggia, Micciche, chiedete a loro. Si sarà emancipato, onorevole Biancofiore, emancipato, ma non gli tornano alla mente tutti i ruoli, gli incarichi che ha avuto. Lui che non se li è mai guadagnati, a 40 anni ha avuto in mano un partito da 35-40% e l'ha ridotto all'11%, ma non ha mai vinto un'elezione, ha perso perfino quelle del suo condominio. Sentite Michela Biancofiore, così parla di Alfano, volano davvero stracci. Gli stracci sono anche quelli che Giuliano Ferrara oggi scrive sul Foglio su Beppe Grillo. Ma che è successo a Ferrara con Beppe Grillo? Monumento di sbronzo a quel cazzone del dottor Gribbels. Sapete che l'ha paragonata a un nazista la scorsa settimana e ora lo chiama dottor Gribbels, come Goebbels. Giuliano Ferrara parla di Beppe Grillo in questi termini, e io me ne scuso, ma insomma bisogna fare un monumento a quel grandissimo cazzone di Beppe Grillo, scrive sul Foglio, col suo solo esistere turpiloquente, con la sua sciocca immobilità prepolitica casaleggiana, con il suo mostrarsi e nascondersi da uomo mascherato della democrazia. Con tutto questo, quel magico Pirla ha portato nell'ordine a tre magnifici risultati: la rielezione di Napolitano, la liquidazione del PD meno L di Bersani, l'incoronazione e la destituzione di Letta. E poi lo chiama ancora dottore, diciamo regime, esponente del regime, è Gribbels. E poi ancora Pirla, e vabbè, i suoi elettori, quel quarto di italiani elettori scemi, e ancora, vabbè, insomma, avanti, avanti così. E questi sono gli epiteti di Giuliano Ferrara oggi nei confronti di Grillo. Per quel che riguarda la politica e l'economia, interessante articolo di Roberto Mania su Repubblica, pagina 12, perché il governo che arriverà, Renzi probabilmente, dovrà mettere mano a un risico di nomine per le aziende pubbliche o semipubbliche molto importante. Allora, le indiscrezioni ci sono già su Repubblica: Scaroni andrà via dall'Eni, non sarà riconfermata la guida dell'Eni, il premier in pectore Renzi vuol cambiare i vertici delle grandi aziende di Stato, a cominciare da Eni, Enel, Finmeccanica, Poste. E allora ecco, questo è il titolo di questo risico: Scaroni via dall'Eni, gubitosi dalla RAI alle Poste, e alle Poste dovrebbe andare Colao dovrebbe andare all'Eni al posto di Scaroni. Campo Dall'Orto, già manager di La 7 MTV, è uno dei più gettonati per prendere il posto di Gubitosi alla RAI, visto che Gubitosi dovrebbe andare alle Poste o all'Enel. Insomma, grande risico e grandi manovre in vista per quel che riguarda l'arrivo del nuovo governo. Vabbè, siamo al momento quasi conclusivo. C'è da dire che, visto che mi hanno detto che sono il Barack Obama dell'informazione, vi segnalo che sul giornale c'è un'intera pagina su Obama, gli Obamas. Barack Obama e Michelle hanno passato il primo weekend di San Valentino separati. Ma chi se ne frega, voi dite. Vabbè, ma non è diciamo la notizia, è la notizia che concorre, ma non vince. Non vince per l'articolo più inutile scovato oggi sui giornali. Oggi c'è una concorrenza spietata. Ma vince il mio amico Mario Aiello sul Messaggero, che per tre quarti di pagina intervista chi? Intervista la compagna di classe di Matteo Renzi, Letizia Manni, la compagna di classe del Bomba. Il Bomba, no, così ieri Aldo Cazzullo ha detto che lo chiamavano il Bomba, perché si inventava delle balle clamorose, no? Il Bomba, sì, così. Allora, Letizia Manni, la compagna al liceo Dante, che racconta quella gita di terza a Budapest con Matteo Renzi, chissà se limonavano in fondo all'autobus, e racconta come coi professori li tirava scemi cambiando discorso e portandolo dove voleva lui. Insomma, ma chi se ne frega della compagna di classe che racconta le gite di Renzi e dice: non era un secchione, era un secchione, era bravo, era bravino e si comportava bene. Mamma mia, il Messaggero, la carta costa. Dai, andiamo al giornale radio, va, che è meglio.